CQ10 apertura del canale 10, c'è qualcuno d'accordo? CQ10 CQ canale 10. C'è qualcuno su 10 in ascolto? C'è qualcuno su 10? C'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno su canale 10? C'è qualcuno su 10? C'è qualcuno qua su 10? C'è qualcuno in ascolto qua? Chi è avanti? Avanti, chi è? Alfabeto, sì. Buongiorno, no, non sono io quello che dico poco fa. Buongiorno Giulio. Ciao Alfabeto. Avanti, chi è l'alfabeto? Oh, la tua amica non è a Buglia. Come va? Va bene, a 6 secondi ve lo spegnere. Hai 72 secondi? Ecco, sto per spegnere il tuo televisore, se no non capivo niente. Bene, mi senti? Sì, benissimo, tu sei. Meglio così, sono contento. Allora, cosa sei combinato di bello? Niente, stavo riposando un pochino. In attesa di fare una passeggiata più tardi quando c'è più fresco, ma al momento un po' di riposo. E tu come mi ascolti? Perché avevo il capo, cioè il pannello di dietro della radio, dove si attaccava l'antenna, tiravano, a un certo momento si era attaccato il filo. Allora l'ho aperto e lo sono andato e sembra che funziona. Mettici per aprire il coso, quando stringi, di quella smalto per unghie, capito? Così ti incolla il bolloncino interno e non si muove più. No, c'è una ghiera, c'è dietro, l'ho stretto dal fermo, stretto. C'è una ghiera, c'è, che ha degli intatti, no, nelle scavature. Anche se veniva male, allora in qualche maniera se lo riuscite a stringere va bene. E certo è che io ho il cavo che è un po' rigido perché va a camminare, no? E dunque potrei portare il tavolino dietro per pulire eccetera, e sollecita un pochino il discorso preso a pannello e allora sarà per quello. Ah, sei stato per quello. No, io l'RG8 l'ho eliminato, c'ho 58, perché era un casino, ogni volta che andavo a attaccare, ci andavano in corto il PL, capito? E quindi ho messo l'RG58, viene meglio a lavorarci, e devo stare sempre attacca, forse provare qualche paracchino, capito? E quindi ho lasciato così, intanto non è che devo usare questa grande potenza, che non me ne frega più niente di usare roba grossa. Se mi basta 200 watt messi da parte che ho qui, basta avanzano pure. Certo, no, ma io l'ho messo per il fatto della scamatura al capo, no? Per interferenze ai vari apparecchiature del vicinato, non si sa mai. È per quello che sto usando la camilla, che quello è fermato al capo al 100%. Invece il 58 è fermato, sa? almeno al 70%, forse anche di meno. Ho capito. Andare è meglio di niente, già è già bene così. Già faccio lavoro, la voglia. Qui sono i 27, ma è tutti pariti. L'avevo rapito gli UFO. Infatti, oppure sono tutti annegati in mare e nell'estate, perché non si è sentito più nessuno. Anche fuori qualche volta con io ho sentito Marco, ma raramente anche. Diciamo che nel giro di un mese e oltre l'ho sentito, mi sembra, due o tre volte o di più. Figurati. E quindi... io uno di questi giorni mi devo piazzare il coso, ci sono. Mi voglio piazzare il baracchino, fare una stazione base. Ci metto un limitatore switching all'interno, un bicchiere di 50 e il coso, l'alimentatore dove spero che ci sia, dove, così mi faccio una stazione base piccolina. A 220 direttamente per non stare prendere la cosa perché l'altra, tanto già andiamo a parecchi. Dentro ci sta, come fai? C'è lo spazio? Sì, ci sta. Ho già provato a fare la misura delle FM500S sopra l'alimentatore, capito? Li tocco i coperchi naturalmente e poi gli faccio degli così per fissarlo in modo da tenerlo sospeso, poi faccio il taglio frontale in modo da fargli uscire il frontalino solo e giusto a misura, a filo proprio il frontalino dove c'è, e poi già lo lascio così e poi gli faccio lo sfondo nero. Già è bello, io anni fa avevo fatto così, avevo fatto la cassetta, ma l'avevo fatta, no? Tutta bella, finita, come si vede. E poi ci avevo messo un autoradio, ci avevo messo gli altoparlanti di fianco, una parte o l'altra, e più il baracchino si era inserito, con l'alimentatore anche, tutto dentro era. Per cui era un tutto compatto, insomma, ecco. Attaccavo la spina, accendevo l'interruttore davanti perché nel pannello frontale ci avevo messo l'interruttore d'accensione e dunque andavo corrente sia al baracchino che all'autoradio. Se volevo ascoltare l'autoradio, il baracchino lo spegnevo o viceversa e andava benissimo, era bello. Poi l'avevo venduto a un tipo perché me l'aveva chiesto 2000 volte. Quando un giorno mi ha scocciato, allora mi ha detto, ma sì, te vatte, là, vuol dire che me lo rifarò, e poi invece non l'ho mai rifatto. E il legno sarebbe bellino farlo. Ci sono quegli americani che hanno fatto il legno di quel modello antico, quindi 40 canali con frontale bellino, inclinato. Poi non l'ho più visto in giro. Mamma gliel'ho regolata perché tutti i giorni mi assillava, veniva sempre in falegnameria, me lo vendi, alla fine mi sono scocciato proprio per non vederlo più, a lui, non al baracchino, a lui, e allora gli ho dato, non te va più vedere, adesso vattene, e non farti più vedere, che mi stai assillando tutti i giorni con questa storia del baracchino. Tanto tutto lo puoi fare quando vuoi. Beh, quello già è vero. Mi utilizzo un altro baracchino, ma lo posso fare autoradio, ne ho messo a tre, si può immaginare, ne ho di tutti gli stili e di tutte le periodi, per cui va bene così, ne ho anche per i CD, ne ho. Aspetta che ne ho anche uno per ancora per la musica sette. Ah, il super 8. Quelli già sono bellini, come stereo. Uno o due me ne sono passate in mano di quelle radio, per carità. Sono tutte buttate. 23 canali, ma 23 MFM con la musica 7. ormai non mi dà più nulla, l'autoradio non lo sto neanche più facendo, ogni volta da poco mi è passata una mia cognata, era un casino, ci ho perso quasi 2 ore e mezzo per collegarglielo, hai capito? E quindi non ho più gana di stare a gentiare, a collegare i cavi, eccetera eccetera, oramai mi è passata la passione di fare quel lavoro lì, di installare autoradio, uno ad uno installato, siamo baracchini. Ok, no, ma io devo recuperare tutte le macchine che ho avuto sempre da radio, da sempre, però tu pensa che addirittura negli anni 70, ma cosa vuol dire, avevo il baracchino che c'era anche la radio, tutto in un unico colpo, no, compatto. Per cui l'antenna era di quelle elettriche che si sollevavano elettricamente. Me lo ricordo come se fosse utile nel 1900 di che avevo allora in quegli anni. Però quando rotamavo la macchina, tutte le macchine che ho avuto, quando le ho rotamate poi la radio l'ho sempre tolta, perché le dovevo lasciare alla cosa, l'ho fatta carrozza e poi se l'avrebbe venduta lui, invece io le ho tolte e sì, ci hanno lasciato la macchina. Ma hai fatto bene, mica gli devi lasciare la tua radio con la tua macchina. Tu magari se lei faccia carrozza se la prende pure, se vai alla tua, sai quante se ne trovano di quelle autoradio grandi bussate fuori, più di una volta ne ho visto io, cioè, addirittura c'era anche le radio dei cosi, delle auto dei carabinieri, l'hanno fatto in vola, ma alcune hanno toccato, aiuto se le porto via una magari, poi mi denunciano pure, aiuto, è meglio che si arrangi di la sua carrozza se la viene in culo. Mi sembra lo si può toccare, uno la cosa sua va bene, però se è una cosa di altri non si deve toccare, sulla terra, per carità, si vuole anche quella adesso. Va bene, dai, comunque. Va bene, adesso eravamo senza sentirci, noi l'ultima volta che ci siamo visti in ospedale, te ne ricordi? La mattina che si è passato in ospedale, che ci siamo visti. Da allora non ce l'avamo più sentito. E parecchio tempo, va bene, neanche io stavo più entrando, capito? Mi guardavo la televisione più che altro e qualche televisore a qualche amico lì, devo aggiustarli e basta, anzi ce l'ho qui, fermo la bellezza di quasi un mese, sto aspettando che mi porti il pezzo un amico, poi glielo, una volta che me la porta glielo piatto, se va bene va bene, se non va bene ce la piglia in culo due televisori. Ah beh certo, non è che vuoi fare. Se va bene, va bene, si può considerare fortunato, se no se lo compra l'uomo non se va da lì. Si va a credere. E va bene, comunque. E adesso fra un po' ecco, le penso, fresco. Vado a mio fratello, perché devo andare a fargli visita, che è stato operato a Cagliari in questi giorni, la settimana scorsa. Ed è rientrato ieri, è rientrato, l'hanno diverso l'ospedale, per cui vado a casa sua, tanto abitiamo anche vicino, e vado a fargli visita dopo, ma un po' più tardi, perché voglio andare a piedi, voglio andare da qui, no, tanto vicino, e ancora c'è caldo, e meglio andare un po' più tardi. Sì, può venire a piedi, per ti fare una passeggiata, non puoi andare in tram, arriva tanto solo schiavi del tram e del coso, tu vieni a piedi, è anche più bello, ti fai la passeggiata, è molto meglio, al ritorno la stessa identica cosa, una bella passeggiata piano, prendere uno e stare tranquillamente a casa, per me non devi stare a usare né tapirurale né nulla, la passeggiata te la vai a piedi, quei 3-4 km al giorno fanno bene al corpo, perché ti trovano le tossine, capito? Invece quando esci così, vai in macchina, non fai nessuna né palestra né niente per dire attività fisica, quindi tende a ingrassare come stavo ingrassando io per la gazzata, da acqua e aranciate e cose del genere, capito? adesso mi sto facendo la dieta, piano piano, dopo penso 2 o 3 mesi già scendo. Se fai dieta accendi per forza, hai all'ubrino, è ovvio. Ehi, vabbè, comunque, no, anch'io ormai non mangio più come una volta, non mangiavo tanto, adesso mangio abbastanza normale, per cui poi mangio solo 2 volte al giorno. E la mattina una piccolissima colazione, ma niente di più. Però pranzo e cena, basta, niente di particolare. Sono finiti gli anni loro quando a tacita magari me ne mangiamo 3 piatti per dire, no? Oggi invece cosa faccio? Un'etto e mezzo, che ne so, sono già stati con una fettina oppure una bistecca oppure qualche pesce e via, ma sono passati gli anni e purtroppo quando passano gli anni si cala su tutto. Ah beh, quello che è vero, io mi stavo ingrassando, adesso lungo a dieta dopo, potrei stare fermo, capito, senza fare nulla, cibo, lavoravo, entravo verso la 1, invece dentro casa stare dalla sera a letto alla sera, non mi va più, e quindi preferisco, me ne esco. Faccio una bella passeggiata a piedi, vado a bermi un succo di frutta, quello che è, e poi me ne torno a casa. Certo, chi è avanti, che vuole entrare qualcuno avanti? E allora cosa qui, con la secchia di schiare sopra, non prende il scatto. O entri o stai zitto, o stai a rompere lì. E vabbè, certo, ma è così Antonio, no? Quando si comincia a fare una certa età, non è che solamente una questione che uno si vuole, diciamo così, limitare. No, si limiti per forza, perché si sa, l'età si comporta quello, si porta quello, si porta. E se prima mangiavi da giovanotto, per dire, mangiavi tanto, adesso la tua nazione è diventata, tutti ho metà, forse anche di meno di metà, ma per me la meglio che succedevo di fuori, non lo so, e non sento fame mai, prima invece da giovane più mangiavo più fame avevo, adesso chi se ne frega, non me ne frega niente, posso stare anche 2 o 3 giorni senza mangiare, non sento nemmeno l'anguore, nulla. A me mi fa birra. Quando la bevo mi fa mangiare il zucchero, beh. Beh, anche quello è vero, ma io non ho mai bevuto, per cui no, quello non può fare effetto, perché non ho mai bevuto e non ho mai nemmeno fumato, per cui non c'è la scusa nemmeno di quello, no, perché tanta gente dice uno che beve magari qualche bottiglia di birra eccetera, tu che poi non ha voglia di mangiare, e lo stesso discorso vado per la sigaretta. Io non ho mai bevuto, non ho mai fumato, per cui non te lo so dire a riguardo di quello. Capo, ma è così. Un bicchiere, la sigaretta mi beve il caffè, si tira subito la sigaretta. Ognuno c'ha il suo, così c'è. La lancia come vuole, la accompagna la regola delle cose. Beh certo, ma è così, è così, è così. Va bene, mi sembra che comincio a vestirmi, sono già quasi le 6, meno 5 quasi, là. Gira, 3 mesi, adesso il caldo già è calmato, già è abbassato molto. Così faccio questa passeggiata piena a casa mia fratello. No, ma è zona stesso, tu immagini anche la chiesa, non sai dove è la chiesa, qua della zona, in fondo, non avrebbe da parte praticamente, in quella zona di là, più vicino. No, se ne ho due fratelli che abitano lì, tutti e due vicini così. Va bene, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, c'è qualcuno che vuole entrare. No, non ne hanno voglia, dai. Ancora è il tempo del mare. Ma non siete sentito nessuno a buio, non lo so come hanno fatto, abbandonati tutti di punto in bianco, così, tutti quanti insieme poi, non è a dire che uno abbandonato, no, tutti insieme. Incredibile, sì, vuol dire che se ne sono andati al mare, magari qualcuno si è fidanzato e quindi è mollato il baracchino. Come succede sempre, d'altronde, o magari non ne va più e quindi preferisce fare altre cose, usare il computer, ma così parlava con un muro, parla. Tutti i falliti, tutti quanti anche di Tero, tutti morti. Oh, io. Oh, che me ascolto più che altro i flussi. Quelli del carbone ascolto di Paolo Torres, poi li ascolto tutti i giorni io. E poi ci sono vari tecnici che vanno sopra il petto e si portano il GMR appresso e gli autoscuole ci sono, è tutto pieno, a parte i cinesi, vabbè. E vabbè, va dalla tua, riesci a sentire, perché tu sei in alto, colpo l'antenna, eccetera, e riesci a sentire, ma io qua come faccio? Con un vino, pure sono in basso, e io sono roba di... insomma di 90 metri, anche di più, forse 100 metri, anche di più credo, 100, 105 metri, non lo so di preciso, sotto il livello di Sassari, per cui io ho Sassari 225 metri sopra il livello del mare, io sono qua 114 metri, se puoi immaginare, nella mia zona, misurato con lo strumento, qua sotto casa, sono a 100 a 114 metri sopra il livello del mare, che ti puoi immaginare, sono penalizzato in quanto a quello. Sei un po' basso, vabbè, sei sotto Monteoro in pratica, quindi fossi stato a Monteoro abitando a Vesti, se volete, si è cambiato le cose. Eh beh, Monteoro è tutto un altro discorso, lì è alto, non a casa ci sono le antenne, lì, tutte le antenne TV, e se non vorrebbero mettere lì. Sì che va bene, ci ascolta 9:20 di segnale qua, radio 5. Ok, è sempre bassa, è sempre alla stessa altezza, perché gli ho tolto l'altra, siccome ho fatto anche dei lavori nel terrazzo, e l'avevo tolta. Nel frattempo avevo autocostruito un'altra antenna, e avevo preso le stesse misure identiche a quella che già avevo, come a canale testa, che si smonta, si abbassa, e ho preso tutte le misure identiche. E l'ho fatto uguale, l'ho fatto a quanto sembra è uguale, lo stesso risultato. No, non mi sembra che ci sia nessuna differenza, insomma, ecco. L'importante è che non hai preso la fibra in carbonio, sennò con l'antenna ti diventa parafulmine. No, è fibra di vetro, proprio, no. Niente carbonio. Fibra di vetro, no, se metti il carbonio non è fibra, di fuoco, è dentro. E dentro l'antenna il filo, il filato dentro, per cui non riuscirebbe, ecco, se ci fosse del metallo o come il carbonio ad esempio non riuscirebbe l'antenna, invece questa è tutto fibra di vetro. E l'ho già ricostruita bene, già è perfetta. Adesso sempre usando la vanta va sempre quella. E poi c'ho la disco l'avevo installata nel quadro di banda. Installata insieme alla direttiva VEU e ciò. Poi qui a casa c'ho sempre l'X300 messa da parte, conservata per sicurezza, quando una giugana me la piazza, ma ci abbassano quelle tre che ho di antenne, se ne mettono un'altra in più voglia, non mi devo fare cazzo le mi faccio le cose da avvinanza, no? No, no, io sono quello e basta, ho questa canna pesca e basta. La motovattubo che avevo, che c'era sempre la motovattubo, però l'ho staccata, è ruotata, dunque non è molto più. Quella la notte quando c'è vento, mamma mia, è poco fischiato in radiale. E io, siccome l'antenna era piazzata nello stesso muro praticamente che coincide dove c'è la camera da letto. E la notte d'inverno, specialmente quando c'è vento forte, ma lo sai come si sente? Un fischio continuo. Allora ho preso il rotondo. E sono già un paio d'anni con questa antenna a autocontrolista del tipo Game Master. Del tipo, non Game Master, ma del tipo, dai. Dunque, ho preso le misure da computer, e poi avevo anche la Game Master originale, io ce l'avevo, e l'avevo data a un mio parente, l'avevo data, è con il sasso, la carbonia, non è qua. È stato stupido, perché stato, io avevo la motovattura, ho pensato cosa mi faccio, la mando, ma... E invece poi ci ho pensato, e l'ho data a questo ragazzo, un mio nipote praticamente. E allora, guarda, però, tutto sommato me la posso anche fare, me la posso costruire. E così ho fatto. L'ho piazzata al primo momento, e va bene. 1-1 su tutta la scala della 27, tranquillo e pacifico, di stazionare, non... Basta, basta, molto basta. Del terrazzo, se puoi immaginare, con un metro e venti di tubo. Se dovessi mettere mai in alto, dove c'era la nostra tubo, andrebbe anche molto meglio. Perché sarebbe allora almeno 6 metri più in alto, di come adesso. E poi evitare spaventato la capelli, tienila così com'è, io mi davanti con la lasciata bassa, ma quando devo salire sopra metto la scaletta e ci arrivo giusto per attaccarla e staccarla. Prima invece era molto più alta la mantola, ogni volta che faceva vento o cose varie, pigliava e si muoveva troppo, capito? Poi sono qui, già lo sai, i problemi che ci sono, dei tralicci, poi a parte i tralicci ci sono c'è il ponte ripetitore del telefonico qui e c'era il parafulmine, quindi poi dai conti lo stesso, io sono in mezzo, quindi ho preferito essere più basso, almeno sono più sicuro, dormo tranquillo la notte. Sì, anche quello, la mantova è metallo, è anche vissuta per il fumo e il vetro. E invece questa è il bel vetro, tu mi dirai, ma c'è sempre il cavo dentro. Sì, è un filo, niente di più, è una cassetta 55 con un pezzo di tiro dentro, con un po' di nave, 3,40, 41, là. Altro per la stessa, le misure non le ho anche scritte, così se per caso dovessi fare qualche altro già le misure, così non devo nemmeno rimisurare la cosa, i cavi, là. Aspetta che te li dico, aspetta la sinistra, perché ce li ho qua, questo, no, non è questo, l'ho messo, ah, ecco, forse è questo, allora, dalla bobina al centro dove ci va messo il condensatore, 1,85 m, e poi se ne va un altro pezzo da 1,40 m, è un filo elettrico unipolare da 3,41 m, poi c'è il condensatore su in alto, attaccato al filo, un filo elettrico, è 9 cm, mentre invece come impedenza è 60 cm. Ho capito, quindi c'è lo schemino, c'hai. No, non ho mai fatto le antenne così. Una volta avevo fatto un dipolo l'avevo costruito e poi basta, non avevo fatto altro, non avevo avuto più voglia poi di costruirmi nulla, a parte che è un casino quando fare i lavori in terrazzino. No, quindi viene benissimo, e dunque io salgo su ambasciata, apro la porta finestra che c'è e vado fuori dal canale e sono a livello di casa, praticamente a livello di ambasciata, no? È attaccato al davanzale, che c'è un davanzale alto un metro, un metro, metro e dieci, poi preciso non lo so, ed è attaccato lì, c'è il tubo. Allora, ieri ci ho messo due gaffe a contrappano, ho fatto due fori con trappano da 16 mm con l'alternatore, ci ho infilato questi due gaffe nuove, perché le avevo tolto, quello che c'erano prima le avevo tolto per fare dei lavori per l'altro, e poi le ho rimessi nuove. Una meraviglia, va benissimo, di lusso. Io metto questo pezzo di palo da 1,20 m, 1,30 m, non di più, e mi ci ho attaccato in testa sotto là, ci ho attaccato l'antenna, diciamo, là. Questa autocostruita. E va bene, funziona bene, so che. Spero a voi che funziona bene. Stai facendo benissimo. Non fischi né niente. Quindi ha voglia, già fa il suo dovere con l'antenna. Break. Avanti. Avanti, break. Sì, buonasera a tutti, Antonio. Ciao. Giulio, ciao. Oh, ciao a tutti, cazzo. Già era un giorno senza sentirti. Ma non solo a te, a tutti gli altri anche, perché non si era più sentito nessuno. Vai, vai tu per Antonello, va. Sì, ciao, ciao Antonello, no, no, ho provato qualche volta a accendere, in effetti sì, non ho più sentito nessuno, neanche io, quindi no, non ho esitato oltre. Infatti, l'estate, la gente in estate magari se n'è andata a mare, dunque non era presente a baracchino, e vabbè, pazienza, bravo. K, ciao Antonio, me ne hai scucito dopo un bel po' di tempo. Segnale 5-6, sei bassino, ma già ti sento lo stesso. Antonio, un'antenna ho appoggiato così sul tetto, sono in campagna, non sono neanche a salire. Sono appoggiata così e poi fa. Una, come si dice, un'antenna di fortuna. Un'antenna brevettata di fortuna ci ha piazzato. Riportati che funzioni poi, che faccia il suo lavoro. Sì, vabbè, certo, quando modulavo io, tanti fa, non è che ci parlavi con un'antenna così, perché ti sovramodulò molto, ma dai, adesso volevo riprendere, piano piano, insomma, magari se c'è qualcuno. Sì, qualcuno già esiste ancora. Non è l'ascolto, già esiste ancora qualcuno. Io accendevo ogni tanto il baracchino tanto per farlo scaldare, specialmente il 2009, che è vecchio, c'ha 20 anni e fruscia c'ha questo baracchino qua. Mi devo ancora decidere di sfruttare i cericini e potenziometro, perché ogni tanto incomincia a dare i numeri. Allora lo accendo, lo lascio acceso un paio d'ore, poi addirittura a giorni me lo dimentico, acceso anche due giorni, baracchino, intanto già gli fa bene, mica gli fa male. Basta che non prenda fuoco. Ma quello no, mare, i condensatori dopo un po' si lasciano andare. Giulio, riprendi. Ok, entro. Sta facendo bene, 9-10 quasi di segnale qua, se puoi immaginare. Per cui già va bene la tua voglia, la radio è ultima. Molto bene, molto molto bene, avanti. Sì, vabbè, questo è un apparecchio vecchissimo che utilizzavo tantissimi anni fa, però un buon apparecchio, questo ha addirittura il doppio modulatore di fabbrica, cioè è nato proprio così, con il doppio modulatore, è un apparecchio che avevo comprato tantissimi anni fa, e praticamente non lo usavo mai, l'ho rispolverato, insomma, sì, diciamo questo. Va bene, tutta voglia. No, io stamattina ho dovuto aprire perché mi si era mollato il PL e la pannello e girava, e a un certo momento quando attaccavo il PL mi ha attaccato il filo, dunque era silenziato. Stamattina l'ho aperto, ho appoggiato alla punta del saldatore, l'ho risaldato il filo e adesso vedo che va bene, per cui va bene. No, ma stavo dicendo, allo stesso tempo ho costruito un'altra antenna, stavo dicendo all'Antonello, che poi è uguale, con le stesse misure identiche, non c'è nessuna differenza da quella canna da pesca che avevo fatto prima, adesso ne ho fatto un'altra e va ultimamente bene. Stesse misure ho fatto uguale, 1 e 1 su tutta la gamma della 27 di stazionarie, controllata con 3 rosmetri, tra cui anche quello che mi avevi una volta dato tu anni fa. E che va bene, tutti mi hanno dato lo stesso risultato. E va bene, Antonello mi ha detto che sto facendo bene, suppongo che anche tu mi ascolti bene, per cui va bene così. Sì, sì, giù, no, io ti ascolto benissimo, vabbè, non siamo lontani, no. Io sono sulla Butibuti a metà strada, praticamente sono dietro la Pedosi, di fronte tra la Pedosi e un pezzo di sorso, quindi ascolto bene. Ma ascolto bene anche Antonello, comunque. Non capisco perché mi senta così basso, che in alto. Perché mi hanno costruito le palazzine di fronte, quelle grandi, da poco, capito? E quindi mi tappano la zona di sorso, prima se Franco mi arrivava a segnare 9, adesso mi arriva a Santiago 5, Franco la sorso, figurati tu. Mi hanno coperto tutto. Da quando l'ho costruito qui, fino al quadrato, palazzine alte, più del palazzo mio, quindi sono diventato basso adesso, sempre un altro. L'unico pezzo che ci ho aperto è Monteoro, Stintino e Porto Torres, solo la zona di Platavona e Sosso, Sedo, Ribù e Tabù. Sì, vabbè, Antonio, ci sentiamo lo stesso, e lui va. Devono costruire, se no la popolazione non lo va a vivere. Picca, c'è tutto campagna qua, se ti ricordi. Quindi figura, te va tutto costruito. Manca solo che costruiscano da quel negozio dove ci sono i videogiochi, in su. Ci sono 4 villette e basta. Solo tutto l'altro terreno ancora non gli hanno dato via di costruire perché l'avevano fottuto, ci hanno buttato dalla Mondezza, Carraggio, i pigi rubare, l'hanno richiamato, gli hanno fatto raccogliere tutto. Lo so, per la forza era così, anche io quando sono arrivato qui ho comprato perché detto, ma è un bel posto, c'era praticamente sulla strada asfaltata, c'era un ingresso indipendente, io entravo dentro e sono comprato e poi piano piano ho venduto un terreno grosso vicino e l'avevamo utilizzato in quattro, un altro terreno l'ho utilizzato in quattro, eravamo due e siamo 21. Figurati, Coco, 21 villette tutte lì. Mio padre una volta mi voleva comprare di là dietro, già ho capito in che zona è in pratica, dalla Uribù dice che fai entri in quella traversa, poi fai il discesore, scendi giù in basso e poi risali in alto e urali continui e vai a sorso, vai in quelle viuzze là. Voleva comprare proprio lì, babbo, una volta la campagna. Aiuto, vai, che io non ci vado di abitare, manco molto, gli ho detto. E come ci arrivo a casa, gli ho detto, a piedi, per non fare minimo 3 km a piedi, poi c'è una specie di curva nascosta a cazzo. Per carità, no, gli ho detto. Non ci vado lì, ecco. Arrangia dei due. E infatti non l'aveva più presa. Chissà, non sarei stato lontano dal mondo. Lo so, quando capita così che uno non ha un medio, non si può scontare, la campagna è brutta per tutti. Io l'ho presa così, volevo un posto, diciamo, per rilassarmi, che la casa già ce l'ho al monte, su vicino al professionale, ma volevo un posto dove stare tranquillo, capito? Sì, io ho capito. L'unica delle per me che è capitata bella è a Coso, quella che c'è salito su alla fisso di qua, che padrone è morto, adesso l'ha venduta quel terreno. Ha avuto sonno aver comprato, c'era la villetta, mi sei stato libero, tranquillo, aveva avuto Osilo a un chilometro neanche di distanza, si vedeva tutto da lì, figurati. Purtroppo, quando non si hanno soldi, quello già era bello lavoro, la prendevo il tram, la 25 avrebbe fatto qualcuno lì, e da lì tranquillamente si è andato 2 metri a piedi, l'unico problema è attraversare la strada. Ma già cioè, risalito in moto me lo fregavo le balle al limite, o con la macchinetta 50. È così, Giulio. Ok, infatti stavo aspettando che mi passasse il microfono perché devo andare a far visita a mio fratello, dai, io vi lascio, adesso mi vesto, adesso lo sembra che ci sia meno caldo, che abita vicino, perché va da piedi, va, abita vicino a me, sento qua, il punto. Per cui è stato rimesso dall'ospedale ieri, hanno dovuto mettere una protesi nel femore, devo immaginare un'operazione, uno indifferente, e adesso va la casa sua perché è stato rimesso ieri per vedere così come sta. Ci sentiamo eventualmente la prossima volta. Vabbè, dai, ciao Antonio, ciao Antonello, grazie per la chiacchieratina. Io ascolto il finalino, poi chiudo, nel frattempo mi sto vestendo, così poi vado direttamente da mio fratello, dai, ve l'avevo promesso che ci sarei andato e dunque ci vado, anche perché ci voglio andare a piedi, così mi garantisco le gambe un pochino, che è vicino, nemmeno un chilometro qua, dove abita Walter, in quella zona lì, si chiede dove abito io, saranno se no 7 o 300 metri, non lo so. Vabbè. Ciao ragazzi, alle prossime, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao Antonio. Ciao Giulio, ci sentiamo dopo al limite. Una passeggiata con tutto e fa gli auguri a tuo fratello da parte mia. Avanti Anto. Ciao Giulio, buona passeggiata, auguroni per tuo fratello, ci sentiamo presto. Ok, di nuovo ciao a tutti e due, ciao, grazie comunque, arrivederci, ciao. Ciao Giulio, ciao. Allora Anto, sempre lavorando, sì. Battagliando, sempre battagliando, da una parte all'altra, la regione che hanno mille problemi, mille modifiche, mille cose nuove, mille rotture di palle. Purtroppo è così, quando fai quel lavoro cosa vuoi fare? Devi sempre viaggiare in macchina, fare chilometri e basta. Infatti è sempre la schiena dimezzata. Tra 10 anni non riuscirò manco a posarmi più in macchina. E se sei tutti i giorni attaccato alla macchina, io credo che ti si fa il culo come la piattaforma del sedile. Oh, non ce la faccio più, cioè, davvero, l'altro giorno ho stato 3 giorni con l'ervo sciacco, non è stato modo, ho fatto le cure, sparare, sempre male. Oramai arrivati a questi 70 e 50 anni cominciano tutti così, cazzo, tutti i picchi cominciano a uscire fuori. Io prima uscivo in moto tranquillo, prendevo acqua, non mi sentivo nulla, adesso dolore alle ginocchia, dolori reumatici, eccetera, eccetera. Poi la cervicale che mi sta crepando, sono giorni addirittura che mi alzo dal letto, non riesco a capire se ho bevuto whisky o cosa diavolo è. Allora mi devo mettere il volto, aspettare una mezz'oretta e cercare di ridotare un po' la testa, piano piano, finché non si sistema tutto. È così, a 50 anni l'uomo pure ammazzato e basta, la donna a 60. A 70? Perché gli viene, non gli viene più il ciclo, capito? E quindi ti manda a cagare, il discorso è quello. Già non le va un pazzo. Oh, mio cugino dice sempre, dice, no, a 50 anni l'uomo pure ammazzato, e basta, c'è niente da fare, c'è l'uomo a 50 anni non si vede più. Oramai è arrivata a quell'età lì, diminuisce la vista, diminuisce eccetera eccetera, non è più la vista di una volta, ma a me mi ha rovinato anche il laboratorio, di La Prospero, capito? Non solo lì, anche quando lavoravo la Rosai, poi cosa ne ho avuto? Non ho avuto proprio niente, mi sono guastato io e buo, già ero mezzo guasto, ma adesso sono guastato del tutto. Certo, per quelli che fanno un lavoro così come il nostro, la vita è essenziale. Io sì, me ne accorgo che la vita non è più come quella di 30 anni fa, però ancora ci vedo, se devo guardare qualcosa di molto impegnativo, già c'è gli occhi per vedere da vicino, a qualcuno mi ripongo, ci me ne porta appresso, ormai lo devo tenere in considerazione anche quello, Antonio, buona data per lui. Sì, per fare il saldato deve stare stampati, adesso bisogna usare la lente, che ci vuole, la lente grande. Io ne ho visto più di uno di... Io mi ricordo sempre di Andrea, quando lavorava lì, qui sotto la scarpa, intanto a lavorare che era senza occhiali. Dopo 2 anni e mezzo ho visto con queste lenti grosse, gli ho detto, ma che è successo? E Antonio, mi sono rovinato, mi ha detto. Mi sono rovinato invece lavorando qua. Con la luce che riflette lo stampato, la lente, mi sono rovinato, dice, sembra un cieco, sembra adesso. Beh sì, perché così, perché quando utilizzi la lente poi, la luce che riflette la lente, è per quello che dopo hanno inventato, prima c'erano quel cazzo di lampade con la lente, col neon, poi hanno inventato qualcosa di più adatto, quelle lì te ne levavano gli occhi prima, io grazie a Dio quelle non le ho mai usate perché in quei tempi ancora ci vedevo bene, quindi usavo la lampada normale ma senza la lente. Sì, vabbè, anche io usavo la lampada normale, solo che... cominciato poi, siccome lì in quel laboratorio era buio, capito? E quindi dovevi fare così, e purtroppo le cose stanno gai quando si fa questi lavori qui. Un gente adesso che sta chiudendo, in difficoltà non riescono più a cavarmi i piedi, ormai la gente, televisione non le fa neanche più riparare, speri a tutto tanto. Quindi oramai il tecnico è muscio, facciamo alla fine in corsi che non esiste nemmeno il tecnico. Sì, sì, no, quelli che io, quei miei amici che erano qui a Sassari, intanto andavo a dare una mano a loro, la sera potevo lavorare, io hanno praticamente chi ha chiuso e quelli che non hanno chiuso stanno facendo automatizzazione, altri furti, automatismi, sorveglianza, ho visto ancora 2 amici, uno ce l'ho a Essamuro, uno ce l'ho vicino a Lissano, intanto vado da loro e gli fanno alcune cose e poi e niente, capito? Io sono a tempo perso, se no mi piace da vivere. Già lo so, già. In corsi che hanno manco neanche un coso, c'è cioè, un laboratorio di tecnico. Ho detto un giorno quando sono andato lì, e come fate, ho detto, per i televisori? Dice, noi i televisori, dice, li prendiamo, li mettiamo fuori, ce li imbustano, adesso si sigillano bene, poi li portano fuori, se mangiano, li riciclano, mi ha detto. Noi ci compriamo il televisore, qui abbiamo solo 3 negozi, c'è Bricome, poi c'è un altro negozio di che vende un po' di tutto, tranne che componenti, quindi dice, tecnici qua non ce ne sono, manco baracchini ci sono, figurati tu, mi ha detto, manco negozi di baracchini, arrivato, per quello sono arrivato alla GBC tanto tempo fa, a comprarsi il baracchino quando modulavano dalla Corsica. Ma Antonio Bodolo con la Corsica negli anni 90, 95, poi non c'è più sentito nessuno, almeno io che sappia non si è più sentito nessuno dalla Corsica, a parte magari qualcuno che ci viaggia lì magari in barca o con qualche yacht, col baracchino nella barca, ma se no altrimenti gente della Corsica e poi così sono rimasti che a lavoro, non ne hanno hobby, che se te la voglia non ne ha di tutta la rimanda. Sì, io lo so, lì l'unica cosa che fa che guadagnano facendo muretti, muretti a secco, tutti salti sono poi, figurati, tutti quanti salti. Quindi lì non tocca a nessuno, c'è gente che si è comprato anche terreni, ha preso, si è costruito le ville, villette, se le affitta, hai capito, si fa i soldi così. Ma io ci ho lavorato per un po' di tempo, sono andato per mesi, 6 mesi di fila, facevo quadri per un'azienda, facevo la frigorifera, cioè le frigo, io andavo lì per cablare i quadri elettrici, il lavoro c'era, quel tipo di lavoro ce n'era, ce n'è anche adesso penso. Sì, già ce n'è ancora, immaginati che dove sono andato io c'era una via, sembrava la corso Vittorio Emanuele, tutto pieno di ristorante, destra a sinistra, sinistra a destra, nessuno si azzuffava, sempre pieno era, a pranzo, a cena, sempre pieno. Devi considerare che comunque è molto frequentata da lavoratori, la maggior parte di quelli che sono in corsica sono sardi, ma un tutto da persone che fanno i tifosi, persone che fanno ferro battuto, persone che fanno i piantieri, tecnici, futbolisti, che lì vanno a lavorare. Io ho amici che stanno ancora andando lì, ma non che stanno da poco se volevano andare a campare dove c'è il frigo, però mi hanno offerto un prezzo che non mi... però il lavoro ce n'è, se vuoi andare, cioè se uno non ha problemi, non ha famiglia, non ha problemi di trovare a casa, sera, vai lì, pagano tutto, si spesa più, andavo lì, c'era una mangiare al ristorante, c'era lì, avevo l'alloggio, quindi senza nessun problema. Sì, già lo so, no, io come faccio qua? Mollo la 25 qui e minnando, non è così facile, no? Ormai ho messo la bici qua, quindi se dovesse capitare che se per sbaglio dovesse uscire in qualche posto di Pirello, oppure uscire me ne sto così, e se la tocca in culo. Fino ad adesso sono pagato dallo Stato, finché dura 18 mesi, poi si vedrà. Quello che è uno fa quello che può, quello che non può lo fanno gli altri, no? E a parte per quello, sì, è vero, quindi. Comunque era bello, sono fatto lì in Corsica. Ci sono quelle strade che sono di una bellezza, che ci passano due macchine giuste e giuste, che se sgravi poco poco ti vale ios. E infatti ti vai a Rubumbetto. A sostegno la strada di Cozzo, ti scavi il gioco. No, ma quella rottura di palle non è tanto la strada per stretta, che sarà il gioco, ma vabbè, è uno comunque se guida, sinceramente tutte queste. E la gendarmeria, cazzo, ogni 100 metri, da fermato uno, si è malato, una volta che si fermano se ne scende a controllarsi, ora sta venendo a fare, ma due rotture di coglione. Sì, ha fatto la gendarmeria, per carità. Ci sono le colonnine dell'acqua per dell'antincendio, mi sembra una ogni chilometro ce n'è. E quello è. Ci hanno tutta l'erba pulita, non c'è un filo d'erba alta lì. Si sono obbligati a lavare l'erba proprio in tutto il territorio. Vabbè, no, Roma, dove ne va? Se la Roma qui se lo vuoi fare. Tu qui ma con quello fanno, se non sta. Lì è tutto pieno di erba, ho iniziato già a volere il fuoco per quello, fanno qualche campagna, si divertono, mettono fuoco e poi già rimangono lì a guardare l'incendio. Ma noi non ci guardiamo di grazie, siamo qui già, poi noi abbiamo poco personale al comune, non abbiamo abbastanza del fuoco. Sì, con quell'acqua lì, addirittura c'hanno anche l'acqua in casa, c'hanno con quei tubi che in pratica servono gli idranti, sono collegati anche le case, figurati tu. È proprio un posto un po' strano, la verità, no? Per andare a comprare qualcosa deve fare 6-7 km, una cosa del genere. Vabbè, se ti piace ti piace, se non ti piace non è come tutte le cose, no? Sono quelli che sono abituati a vivere a abitare in campagna, tutte le volte che sono farsi il pane devono farsi 3 km, quelli che invece dicono no, in campagna non sanno che abitare, perché io scendo le scale, esco dal portone, c'è un negozio lì. È come tutte le cose, quando una cosa ti piace, questa è l'abitudine, quando uno vuole avere un po' di strada, dice a me non me ne frega niente, devo uscire a prendermi il pane, però un po' tranquillo. Ad esempio io sono di quelli che dicono, io in primis avrei preferito fare 2 km in più per comprare il pane che non avere rotture di coglione, del tipo persone che ti abitano sopra o gente che ti abita a fianco, oppure strade dove arrivi non trovi parcheggio, capito? Qua sotto parcheggio non la capi mai, è Ma cosa qua? C'è quello, il bar che c'ho sotto è sempre pieno. Se, tutti parcheggiano per, quelle, per il bar, non per altro. Poi tutti i negozi che c'ho qui, c'ho il Ruspin, c'è la Coop, c'è il panificio qua sotto, poi c'è quello delle, che fa pratiche per auto, poi c'è quello che, sta, quello che è mezzo fallito, che vende materiale elettrico, già lo sai di chi sto parlando, quindi. Scappa, era fuggito, quando ha aperto giù a pedaliero se l'ha messa in culo l'azzurra. Allora, guapo. Ma che papà che fine ha fatto? Ho visto che ha chiuso anche la polizia. Ha chiuso, ha fallito, sì. Basta che tu vai a coso, mi sa che tu vedi le lavatrici sue, tutto da quel napoletano. Ah, quello lì, la roba sua. Secondo me sì, perché ce ne saranno almeno una trentina di lavatrici nuove, nuove, tutte messe fuori. Il giorno che passa qualcuno lì con qualche cosa si carica le lavatrici, se le porta via, se le vende. Se l'ho vista già buttata e ce l'ho fatta sotto la tettoia. Ma quello è tutto scemo, la mamma è, le avrà comprate per 500 euro tutte quante. Sì, sì, lui compra a blocco, compra, capito? Quando fallisce qualche negozio va all'asta, capito? Prende tutto al volo. E lui secondo me ha preso tutto all'asta. All'asta fallimentare. È un coso quello, un succhio a sangue quella polettana. Non ci sta proprio più niente con i capannoni. Bisogna, qualche giorno non ci butta nulla via, anzi non ci. Si è trasferito perché non ci stava più niente da quanta mondezza c'era, adesso c'era peggio di prima. Sì, in effetti c'è, cioè, poi io mi ricordo qualche volta sono andato quando ero dall'altra parte, ma adesso non c'è, ma tutto mutinaggio, computer vecchi di tempi di nonno, autoradio, ma cosa da prendere sono? Quelle sono tutte mie, cioè, c'era, se ne aveva avuto voglia, pigliava, spediva tutto fuori e se aveva fatto i soldi. Tanto i computer, quelli modello vecchio, li comprano solo per togliere i componenti e li utilizzare solo per togliere loro, e c'è basta. Non credono, io ho un amico che lui fa del volontariato, lui è un medico ricercatore. Volontariato all'estero e va sempre in quei paesi, sai, dove tutti quei paesi poveri, e tanto mi richiede questi computer portatili, quindi vecchia data, mi dice che là li utilizzano nelle scuole per insegnare ai bambini computer, capito? Ehi, già c'è il suo pieno di computer. È perché secondo te i vestiti, quelli che noi buttiamo in quei cassoni gialli, no, non li rivendono lo stesso, li lavano, li prendono e ce li portano di lì, capito, nei paesi del terzo mondo, e li vendono, quindi in pratica non ci rimettono nulla, no? Sicuramente quelli si dismettano e li usano, perché comunque là sono indietro 50 anni. Ci guadagnano. Io c'avevo un amico senegalese, un mio fratello, è venuto, c'avevo un sacco di roba in garage che mi aveva lasciato la buona anima di Prospero, è venuto qui con un carro e si è portato via tutto, si è portato via lavatrici, frigo di ferì, tutto quello che gli serviva, tutto in Senegal ha spedito. Sì, quello è capitato anche a me, un senegalese che conoscevo io, che avevo dato un po' di televisori che avevo in garage. C'erano qualcuno che funzionava, qualcuno da riparare, ma erano molti doppioni, no? Quindi da due ne facevi uno, io li prendevo, se li mettevo lì, ma ad esempio uno c'era un problema, uno un altro mi capitava, no? Che mi rilasciavano, e dicevano no, non li voglio riparare, ma stavo facendo un lavoro, dicevo voglio questo televisore, io lo prendevo, poi c'era uno uguale, allora lo mettevo da parte, e li mettevo a fianco, sai, da uno ne fai, da due ne fai uno, poi non è, ci stavamo mai, un giorno è venuto e si è appoggiato, boh, una decina, Fiumicino una volta, un'altra volta ce l'ha portato via a 5 perché ha viaggiato con una macchina più piccola, e un'altra volta invece gli hanno dato 4 computer fissi, ci ha portato via, che ha viaggiato con un furgone, con un tipo che aveva anche dei tappeti, tanto che so, ce l'ha fatto di tutto veramente. Sì, senegalesi, sì. Quella roba lì ce la portano via subito. Televisori, anche soppocatori, anche l'ultimo modello, tu questo lo fanno loro, mica lo fai tu, tu dici guarda, quanto mi vuoi dare, ti do un po' di vestiti, che dici, e tu mi dai il televisore, siamo a posto. Tanto non è che, così anche quando gli fai l'impianto della parabola, come a me mi è successo, dice fai, quando, dopo l'avevo installata mi ha fatto, no, ti posso dare 30 euro, aspetta, allora facciamo così, gli ho detto. Ho preso la roba, io mi cominciavo a smontare e me ne sto andando, e sto fai te la piazzi tu adesso. No, ma quella cosa che non mi capita, non perché sennò aveva bolso le mani in tasca. Io me l'avrei smontata, io l'avrei fatta mangiare. Ah, io già l'ho smontata, ho lasciato la gaffa, dove sono arrivati a lanci di tutti i lanci, cercati qualche amico senegalese che ne capisce qualcosa e tutti i lanci. Poi ti cado le tornate là per 30 euro, così, ma così, giusto. Non esiste, gli ho detto, a me mi dai 50 e basta, che 50 è anche poco, gli ho detto, se lo vuoi così siano pazienza, no, mi ha detto, allora, vabbè, non c'è problema, non è successo nulla, dico, però ho mollato tutto, gli ho lasciato l'antenna, gli ho staccato l'illuminatore, era il mio, e poi vai arrangia, ti copri l'illuminatore e ti installi la parabola. Ce la fai a farlo, intanto no, cerca qualche amico se ce l'hai, di Sassari, ma di qualcuno che campana ad aria, gli ho detto, ce lo fai installare, per 10 euro. Ma tu praticamente l'antenna non gliela hai, tu ce l'aveva lui. Sì, l'antenna ce l'aveva già lui, l'aveva già contatta lui. Io gli ho solamente installata lì nella gaffa, gli ho messo la gaffa, capito? La pipetta e gliel'ho installata. Poi avevo messo l'illuminatore, che era il mio, poi il cavo ce l'aveva lui, i chiudini altrettanto, io gli avevo messo già i chiudini, ho preso, gli ho staccato il cavo, i chiudini e tutto. E tu vai avanti. Se faccio avanti, però oggi a guardare. Vabbè, ascolta, ti volevo chiedere una cosa, ma te lo dico di termine 6? Sì, termine 6 è uguale a termine 9, l'unica cosa è che 120 calari, invece termine 9 è 271. Gli mancano quei due integrati che ci sono, vicino al PLL e basta, e qualche altro componente, però più che altro l'ho stampato, è tutto uguale. Sì, siccome io ne ho ritrovato uno in garage l'altro giorno, e l'ho risolverato, gli ho dato una pulita, gli ho risolto i coperchi, ma il VIP come cazzo se lo taglio? C'era un ponticello, ma non mi ricordo, cos'era, J6, J7, Guarda, questo non te lo so dire, la questione del VIP, perché non l'ho mai attaccato, capito? Se dovrebbe esserci un transistor, ci dovrebbe essere agganciato dopo un integrato a 6 piedini. Però non mi ricordo, non l'ho mai staccato io BP dall'apparecchio, perlomeno, ma è stato sempre così com'è, però poi non ho neanche fastidio il BP, lo puoi anche lasciare, ora di nafuti. No, ma l'ha chiesto, siccome lo sto dando, a un amico che ho il contento, lo posso dire, e sai che ha il tassino del canale Nopper, e mi ha detto, dice, ma lo puoi mettere l'esclusione del tipo, perché dice, ma come ti piace, però... Siccome ne abbiamo fatto tanti, cazzo, in quel periodo, ma ne abbiamo fatto tanti, ma non ricordo più però, se era un ponticello, se era un filo colorato, non lo ricordo più, poi sono fatto 30 anni. Te lo devi segnare, come ho fatto io la fesseria una volta, mi avevano dato un apparecchio, andava dai 28 fino ai 30 andava, era uguale identico al 2009. Ho staccato il ponticello che c'era in questo integrato qui e non mi sono segnato in quale piedino era agganciato, insomma aver fatto l'apparecchio canale normale e poi dai 28 ai 30 in automatico, non me lo ricordo più, e non l'avevo manco scritto, figurati. Ah, io ne avevo tolto un sacco di termini simili, ne avevo messo il tasto a un sacco, ma me lo ricordo, me, quante modifiche avevo fatto, prima addirittura l'avevo stampato, poi avevo intercettato il filo e non arrivavo neanche più a saldare niente, ne rosicavo il filo e lo collegavo direttamente all'interruttore, non mi ricordo più, se non è che posso andare a segare filo a filo, no? No, se fai filo a filo già, già ne ci domani, già. Visti, boh. Provare a se c'hai magari come si chiama? Lo schema elettrico dove c'è il bip e magari c'è segnato un filo, perché quel filo in pratica dovrebbe essere collegato al mic gate, dovrebbe essere collegato. Sicuramente passa per il mic gate e poi passa per l'integrato, cioè l'integrato che fa fare il bip, fate lo bip a capo di su. Senz'altro sì. Vabbè, c'è anche un da lei, c'è quello del piccolino nero. Quindi dovrebbe essere agganciato al mic gate senz'altro. Quel filo lì. No, nel 2006 non c'era lei, c'è il transistor, non è così lo zener. Cioè, glielo fa fare il mic. Mike Gates, esatto, perché sono il bip non sarebbe mai uscito, non penso sia collegato direttamente allo spinotto del microfono, mi sembra strano, quindi senz'altro passa attraverso il Mike Gates, passa, quindi bisognerebbe seguire il filo del Mike Gates dove arriva e andare alla fonte e vedere se è quello. Tanto te la accorgi, una volta che appoggi il dito sopra cambia il tono del bip. Se la bisogna subito oppure non esce nemmeno. Sì, praticamente passa per modulatore, no? No, per modulatore. Una volta che prendi la portante, no? Va a funzionare il modulatore. Quando rilascio la portante, questo transistor non funziona. Il modulatore è collegato con due il modulatore che ti fa ti dà l'impulso all'integratino per fare il bip e così trovare l'integratino basta escludere il segno del bip e poi ci sono anche adesso bisogna vedere se il modello vecchio o il modello nuovo di 2006 c'è la fase del 2006 che aveva il bip più lungo se ti ricordi bene è normale no questo mio è no, è vecchio, ancora l'ho stampato in vetro unite trasparente con le scritte tutti quanti in clipper, cioè non c'è scritto AMCC, FFM, MCC, AMC Power, è proprio il primo, quello che se lo guardi davanti al sole è tutto trasparente. Ho capito, ce l'ho anch'io, quello l'ho stampato così, del 2009 però ce l'ho anch'io quello. Ce l'ho conservato, sono agganciati tutti i cavetti, tutti i l'unica cosa che mancano sono i finali e qualche altra cosa, che poi è stato per pezzi per altri apparecchi che c'avevo io. Vabbè c'è un 3009, c'ho il Codex 4000 e l'Ala 37 che sono tutti uguali, l'ho stampato, sono tutti precisi. Sì, che hanno con la scheda la 360, come si chiama? 360. Mi sembra che è quella. Sì, figurati. Anzi, la 87 mi aveva dato era proprio da buttare. Poi ho detto, voglio provare a vedere se riesco a farlo funzionare. Se lo stavo per la parte, avevo staccato i finali, ho preso e li avevo ricomprati, ce li ho messi. Poi ho comprato un integrato audio, glielo ho ripiazzato lo stesso, eccetera, eccetera. Poi ho preso e collegato i cavi. Ha subito funzionava, è stata una bomba, gli ha staccato il trim della LC, gli ha staccato un treno come audio. Si mangia anche questo addirittura. Sì, no, fare il suo, fare una panda fetta. Ho avuto una fetta per 2001, vabbè, 4005 ho avuto adesso gioco questo 3006, tutto questo giorno adesso che è un DFK della Presse. Poi cosa ho? Ah, ho un Pokémon dei 2, un altro. E poi io ho un Superstar 6009. E vabbè, il 440. Ecco. Poi io l'ultimo dei due l'ho regalato. L'ho regalato a Mario Manca suo all'alberghiero. Insieme alla BA 27 L, ma è un alimentatore che ho regalato. E poi non lo sta neanche usando. Poi Viking l'ho avuto lo stesso. Ho avuto anche quell'apparecchio che c'è l'effetto eco, gli ultimi usciti che costava 300 o passa euro come baracchino. Vabbè, a parte che ne ho usato tre e tutti e tre poi li ho venduti. Adesso c'ho il quadribanda, Susanna, lo Iaesu ho messo da una parte, gli ho messo la discola, gli ho messo, c'è la due tacche di antenne, qualche volta che voglio tenere in PML, uso devo per mettere quello là, questo è usato il 27, però dopo la 27 c'ho questo, c'ho l'altro, c'ho il lineare quello della Brimi, vecchio come il cucco, monta la valvola americana. Sì, qua l'abbiamo anche uno io, da qualche parte, non so dove sono messo, nero, non ero con gli strumenti illuminati, 400 watt SSD e 200 AM. Ah, quello è Giambo che parlava. No, vedi anche questo, non ero, al volare, 220. Ehi, ho usato anche il Giambo io, cazzo. Il Giambo era pericoloso, c'aveva quei pulsanti, il modello vecchio di televisore, dovevi fare attento come schiacciavi, se non ti rimanevano in mano, ti rimanevano. Ogni va fatta, cazzo. Ehi, infatti, prova di questi appariscenti le vecchie, che ormai adesso stanno tutti qua in digitale, però le cose che ci sono, che trovi, gli apparecchi, comunque le lineari, questa roba vecchia che molte volte non riesce a destinare, non trovi niente. Già non si trovavano prima i pulsanti, due ad avanti. No, quel tipo di pulsanti è un casino da trovarli. A meno che non sei fortunato. Sono più di quei pulsanti volendo vecchio del tipo di sensore di televisore, quindi figurati, sono bianchi. Quello che faccio qui è così, vecchio, nero, e c'è il medio amperometro addirittura, ma con wattmetro c'è. Sì, il micro amperometro che funziona al watt, perché comunque lui trasforma con il calcolo elettronico, trasforma il watt in ampere. C'è l'assorbimento della valvola. Esatto, sì, già è così. E c'è quello ancora, funziona ancora bene lì. L'unica cosa che voglio cambiare sono i condensatori, pesavano quelli grandi in carta che quando scoppiano fanno una bella fumata bianca che sono di acido, che sono una cosa allucinante. Comunque lo sai che io lo sostituisco in una radio che ho una vecchia radio anni 40, un mobile bar con radio incorporata, che mi hanno regalato mio zio, mi ha lasciato l'eredità, praticamente io ero un po' forte, si occupava di vendita, no, ma l'eredità, è bella grande, sembra un comò, sull'alto se faccio un giro lì, sotto c'è un mobile bar, le latte, le bottiglie, e poi c'è la radio. Gliel'ho cambiato il condensatore da casa perché erano fatti sparati, la roba vecchia, però non sono mai riuscito a farla andare bene, ha sempre questo cazzo di ronzio. Lo giro di alternanza, che altro. Vabbè che quelle radio mi manca la massa a terra pure, quindi figurati. Di quella volta che gli avevo regalato tre a coso io. A Mario Chigna di quelle a valvole. Infatti no, hai detto più a dire, non le voglio manco vedere, c'hanno i giradischi, hai detto più a dire tu, io non le voglio manco, neanche le riparo, ho detto non sono dato, cioè, non sai che mi salta in aria, ho detto. No, io già ne ho riparato tante, alcuni amici addirittura me ne hanno portato, me ne hanno mandato, me ne hanno salito due da Brescia un po' di anni fa, le ho riparate per un industriale che con il mio zio, mi aveva dato 300 euro a radio e non le avevano le radio, così come non le avevano niente, però 300 euro a radio me l'ho dato per la parte elettrica, elettronica, diciamo. E poi gli ho dato a un amico che ha fatto la parte, diciamo, del mobile. Ah beh, il mobile è legno, quindi bisognava lucidarlo, eccetera, eccetera, a volte c'era la parte posteriore magari che era, si è visto quel cartone strano e si è cribbato, quindi ha fatto i pezzi. A volte già si trovano, magari se vai da qualche amico magari che ci abbia pezzi di cui non serve fa niente, io l'ho preso e gli ho dato a questo qua, ce l'ha abbandonato a Santa Maria, c'era, non so se sono ancora in te, se sono pieni di cacca di piccioni, tutta una parte in chivie. Se per caso la stavo sempre cercando una, infatti sistemata di quelle, però no, senza mobili, quelle da mettere sul comodino, sai, sul comodino. Appoggiare sul mobile. E non ne ho neanche una di quelle più. L'unica cosa che mi sono rimaste sono di quelle mie. Cioè le segreterie telefoniche, quelle con l'altro vento, nuove, scatolate, e altre cose varie, però roba di radio valvole non ne ho, manco una. Anche il telefono, quello della Telecom, addirittura quello celeste, e si faceva da una volta la videochiamata, no, Marco, serve solo per fare bellezza e basta, c'è la telecamera, per fare le fotografie, eccetera, eccetera, telefono normale. Sì, diamo lo discorso, questo, un attimo, Eia. Cazzo, mi ha Marco Condo, la buon'anima. Beh Antone, io ho provato a accendere, ho sentito tu e l'altra persona che non mi ricordo chi è, sto cucinando, sto facendo roba in cucina, dai, quindi rimango all'ascolto. Ciao Antone, ciao. Sì, ciao Marco, buona cucinata, ci va quella. Tanto è Antonio Riserva. Eia, mi sembrava ma non ero sicuro, dai. Va bene Antone, dai, rimango in Corix. Va bene, gente ne sta entrando. Sono entrato Giulio, poi sono entrato io, l'ho sentito fischiare. E poi va Antonio. Poi se c'è qualcun altro d'ascolto non te lo so dire. Va bene Antone, dai, buon proseguimento di serata. Ciao ciao. E io, ciao Marco, ciao. Eccomi qua. Sono qua, sono andato a prendermi l'acqua. Pensavo che ti era dato orgoglio, ragazzi. No, sono andato in cucina, è stato Marco Condo poco fa, sta cucinando. No, ma sono stato Marco Condo, sempre cucinando e mangiando. Ehi, a cucinando e mangiando. E assolutamente, se ne frega. Come mi hanno messo la dieta, eh? E anche io devo fare la dieta. Se due volte è sempre, ok? No, mi hanno messo la dieta per la schiena. E poi, no, è che sono grasso, però mi ha detto per la schiena, sai, con l'età, poi il metabolismo non è più lo stesso, quindi quasi chilo con me, mi hanno messo la schiena. Movimento mi ha detto, non credo che vada a vedere più. Sì, che movimento fai? Per esempio, se seduto in macchina, che movimento fai? Meno che non lo fai in campagna. E prendi la moto zappa e invece sfugliatore e cominci a tagliare l'erba. No, in macchina mi sposto per andare, ma poi quando sono tutti in pigiama, sono avanti e indietro, tutta la rimanda, è che passo molto tempo anche in macchina, perché comunque non lavoro sempre lì, quindi devo ascoltare. Però quando me ne scendo poi già do 4-5 ore in piedi per la distruttente, è che poi viene l'appetito, aspetta un amico, faccio qualcosa in più, ti pensi una birra in più, anche se era tanto, non andavo più per vento, ma è stato se quello che sono bicchiere di birra, se te lo pensi, un bicchiere, poi è andato per guidare, perché un bicchiere non è poi bere. Sì, anche un dito, dipende. non si vede nulla, purtroppo se fa il giro come è successo una volta a me, che è venuto Gianni qua da con due, un giro lui, ha già piato il piede, poi è arrivato a fare un califone, ha già comprato il piede e mi sono fuggito, ha già fatto la gente, invece. Bravo. È venuto in moto, ma lo stavo riconoscendo, figurati tu. Abbiamo bevuto una birra. E ha cominciato, è un'altra, poi Franco lo stesso, un'altra, ci via dei bei becci, tiratevi le balle, io me ne sono da casa, gli ho stati in chiù, tutti e due raggiunti. Quando sono così, no, io da colleghi, intanto quello abbiamo fatto di tutti, no? Che sia il furgone, sia l'altra macchina, perché molte volte abbiamo, per esempio, se ne so, un lavoro ovestano, quindi viene due tecnici vengono da Sassa, le due vengono molte volte da Cagliari, c'è qualcuno che viene da Santa Giusta, abbiamo dei colleghi anche giornalieri, quindi ci incontriamo lì, però chiaramente non è che poi un bicchiere a testa, siamo un po' indesi, 3-4 bottiglie e poi dirà, beh, non è che lì noia, se no già ne torna, già ci vai domani alla lavorare, sta a 30. Io lo so già. Oh, ma lui è sceso in moto, è bello quello, vabbè che ci ha sventato in moto, ma le curve vogliono fatte di usilo. Quindi, lui, Franco l'ha venuto in macchina, e io e Macmagliaso Guappini, perché abbiamo bevuto qui nel fornitore che c'è di fronte all'ostello, quindi mi ha giocato a piedi io. 20 metri a piedi già fa bene. E comunque lo sai che in moto c'è tolleranza a zero, sì, per l'alcol. Cioè se ti fai male in macchina, ti fanno la contesta e sei brutto. In moto invece c'è tolleranza a zero. Chi va in moto non deve bere niente. Chi va in moto sì. Se no già ti fa l'uovo nuovo, ti fa. E in moto, come si chiama, prendi freddo, ciao, buonanotte, te lo sale la birra azzurra. Se ti dà la testa al palo. Sì, vabbè, una volta si è tirato la testa, come si chiama, dentro una casa c'è entrato in macchina, ha sfondato il muro e c'è entrato, si è fermato davanti alla finestra di quella poveraccia a mezzanotte. Quelle sono le cose peggiori. Quando cade dalla moto cade per farti male. Io sono andato in moto per un po' di anni, anche quando avevo la macchina, cioè mi sono caduto la moto, però mi ricordo che la volta che mi sono caduto mi sono fatto male. No, è molto brutto, se cadi in moto ti fai male davvero, a parte le ginocchia, secondo me cadi te ne stacchi anche il collo, perché il casco pesa più della testa, pensi. Quindi non è che ti puoi salvare così tanto, no. Oppure se ti cudi un gabbo alla macchina, secondo come cade ti crepi tutto, ti crepi. Io aspetta un attimino, già dietro subito, ti sto chiamando. Vai. Eri tu, era il tuo bip, ma il segnale era basso, era tipo 8. Stavi provando diverse antenne? Zappa. No, stavo acceso lineare, capito? Schiacciato e non era accordato, adesso già sta accordato da solo. Adesso lo sto pompando. 9 più 25. Io sto mangiando qua. Per modo di dire. Stavo provando, era un da un po' che non uso, mi ha fatto scaldare intanto, così almeno pompa diceva. Quale hai tu adesso di lineare? Sempre di solito, lo Speedy CTE. Ma valvole? Una valvola solo. Sai che non me lo ricordavo nemmeno di nome, ero roba degli anni 80, no? Speedy. Ma tipo BV131, così. Una cosa più o meno, là. È nero e... una rossa, una gialla, una verde e due pulsanti bianchi, tipo quelli che si usavano una volta per accendere il televisore. Quando vecchio. Ehi, ehi. E purtroppo questi valvolari adesso non... Io già a suo tempo avevo cercato il 131 ed era uscito di produzione, nessun negozio ce l'aveva più. È lo stesso per il BV135, che aveva due valvole anziché una. Era come il 131, un po' più lungo e due valvole. Non aveva potenza doppia, ma forse la metà in più, tipo anziché 100, forse 150 watt effettivi. Tutto sparito, non ne trovi più, no. E non so nemmeno se trovi le valvole di ricambio. Si trovano? Sì, io sì, ho valvole di ricambio. Ah, fate tutto. Ah, già funziona ancora, cosa che butto tutto. Già funziona. C'ho le valvole, del jump aristocrat. C'ho la pilota e tutte le altre, sai, mi pare che le montava. Più ne ho altre 4 del BV2001 e mi è capato e... ma queste valvole, perché ha applicato il valvolare, funzionavano prima, vogliamo fare tutti. Sono quelli che sono di questi nuovi, non riesci mai a accordarli. Vabbè, Antonio Riserva. Ciao Marco, sono ascoltato. Trombo con l'altro qua. Ti dicevo Antonio, ma le valvole le trovi tipo originali oppure roba equivalenti ma con meno potenza? Come funziona? Come transistor per i linearetti a transistor? Come funziona? Valvole russe, come sono queste valvole? Guarda, se trovi qualche vita che ha valvole originali, ma è un magazzino, le trovi originali, se non sono come i transistor che compri ora. Quelli che vedi che li prendono in Cina 1969 e costano 57.001, ecco, così funziona. Se trovi qualche dita che c'era originale, devi guardare le sigle e li acquisti, rimanenti nel magazzino, ma ormai non ce ne sono più comunque neanche. Non penso, perché noi siamo già 20 anni indietro, cioè erano già 20 anni indietro loro, siamo già 20 anni più avanti noi, quindi non penso che rimanenti nel magazzino ci sia più niente. E quindi niente. Quelle che trovi sono surrogati, che se riesci a farle andare bene o male sì, 10-15 watt in meno ti danno. Ecco, io avevo sentito parlare anche di valvole russe per i lineari, non so se ZG, roba equivalente, però russa, fabbricazione russa. Ehi, ma avranno davvero esaurito le scorte sicuramente. Chi c'ha qualche lineare avrà cannibalizzato tutti i fondi di magazzino, in modo da non doverci buttare i lineari in futuro. Così è. Vai Antone, dai, che finisco qua, se no via. Ma già ce ne ho valvole io, quindi sono a posto. C'è le valvole di riserva, nel caso si rompe qualcuno, là ci sono le altre. Già funziona quello che c'ho io. Vabbè, allora domani le vengo a prendere, vai. Sì, se c'è il lineare. Cazzo, tu mi hai detto, c'ho le valvole di riserva, l'hai appena detto. Di altri mi riservano, ce l'ho di riserva io. Marco, cosa ha detto? Valvole di riserva, quindi di diritto quelle valvole sono tue, Anto. Allora, vedi Antone, non è che qua si tratta di due contro uno, eh. Già, e poi scusa, tu e lui, già rimangono qua, cazzo. Quando ce la viva fino a Giovanna mi ha sparato 30 euro una queste valvole, aiuto lasciato dove sono, ecco. Io se io, ho detto, volevo rivenderle. Oh, ma tu sei matto, ho detto. Tu venderle quelle oro, ho detto, quelle oro. Sì, vabbè, per scegliere la Giovanna era oro anche da sommato le dediche dei figli. Cazzo, 30 euro una è quasi a pagare. Non sarà, io ho detto, che te ne pago 30 euro una. Già mi tengo qua belle cose rapide, ho detto. Sì, comunque ho visto che c'è un calo netto. mercato e per queste cose. Addirittura ho visto, noi proprio perché siamo in Sardegna facciamo un po' esclusi diciamo dal mondo, come si dice, non abbiamo mercatini qua, però ho visto, io ho la, come si dice, una visita con molte persone del continente che fanno radio, che mi piace comunque seguire le radio, anche molte persone che comunque non sono diramatori ma ancora parlano in radio e fanno dei mercatini, mandano le foto, ma ci sono affari veramente grossi, però nessuno compra più niente perché non c'è più mercato. Queste cose ormai fanno molto questi apparecchi in digitale che hanno la tonifica di toni, no? E queste cose, però questi apparecchi vecchi non vanno più. Oh, ma non è compatibile nessuno, ma tu sono perché non fai comprare un Kenwood, non sia 80 o 140, 440. Ti stai comprando un lavandino, o lo ISO FT 757, e come lo ripari, dai da per lì. Come ti arriva a casa, dura un mese e mezzo, e che servizio è servito, come non riserva quello, avrei fatto la paletta, a prendere solo le zampe e i piedi. Non ci puoi fare, no, non c'è più mercato, se qualcuno ancora compra qualche radio, compra quelle che comunque funzionano anche in altri modi, questo è proprio che vanno solo con le aziende, non ce n'è più per nessuno, sono rimaste solo dei camionisti praticamente, solamente sette, e neanche perché in Sardegna non viene nessuno. Infatti io vedo questi camionisti che con questa gente che vende questi Alan, questi Alan 88 a 400 euro, ma non costa neanche un piede, non avrà a fare. Sì, anche 500 ne hanno venduto di quelli, capito? Tutti alla GBC addirittura viene quasi 200 euro mio. Il Midland, ho preso otto euro un giorno, ho detto quanto è che avevo di questa macchina, c'ha più di 20 anni, 200 euro mi ha detto, ma non se ne vale nemmeno, gli ho detto, boh, e poi lascia lui non voglio, ho detto lascia, è meglio, gli ho detto, io già non te le compro, ho detto 200 euro, ma lo puoi modificare, puoi mettere il doppio modulatore, l'effetto eco, sì, gli ho detto. E lo uso, gli ho detto, in casa, ho detto così, me ne vengono i carabinieri domani mattina a solarmi dietro il portone, gli ho detto. Ce ne fa poco TV, hai quel tipo di apparecchi. No, ma poi il discorso non è quello, per far fare quattro chiacchiere, tutte le foto di avere, ecco, elicottero, viaggio, e poi sono qui, sono davanti, picco. Il problema è il TV che fanno, sono una cosa allucinante, e se no i punti che perdono le ricezioni, tipo l'FM500S, in camion va bene perché sei parli distante, ma se sono in carovana 5 o 6 persone non ne comprendi più nulla. Allora, delle donne penso che mi hanno sempre portato casini, nel loro piccolo però qualche casino me l'hanno portato. Degli apparecchi è ormai un prodotto di nicchia per pochi disperati che ancora modulano, però vedi in Italia non c'è mai stato uno spot televisivo per i baracchini. Io mi ricordo che su YouTube anni fa avevo trovato una specie di, guarda, o era un mini documentario tipo 3 minuti, 4 minuti, o era uno spot TV inglese, perché si vedeva il tipo che andava dal negozio di elettronica, che gli faceva vedere vari baracchini, che lo aiutava a montarlo in macchina, e la guida era a destra, no? Il volante era a destra, quindi presumo roba inglese. In Italia spot o comunque roba del genere non ne ho mai visto, forse in America, forse, non è mai stato pubblicizzato in TV o assolutamente, mentre qualsiasi altro prodotto viene pubblicizzato in TV, no, spot su tutto, moda, roba da bere, roba da vestire, di tutto e di più, tutto tranne i baracchini. Ma non sai cos'è Marco, ti devo dire anche una cosa, che questa sala del baracchino è nata come una sorta non è che vuole far poter chiacchierare, poter conoscere persone, invece poi qua è qua soprattutto qui, io ho amici che davano, quindi Xiaomi è diventato come un modo per fare veramente i soldi, tanto è vero che io non so se abbia iniziato a parlare non basta, non avrei neanche fatto militare ancora, quindi quando mi chiedevano aiuto andavo a pensare a tirare un figlio pensato costante, non so neanche per quante, però non mi ha fermato pure dalla giustizia di questo tecnico, non me lo dimenticherò mai, e mi ha detto queste testuali parole, ma smettevo di rompere i coglioni, lasciamo fare, di fare il mio lavoro e lasciare fare il lavoro, il loro lavoro, che era questo, e quello era il loro lavoro, di farmi i cazzi miei praticamente, mi ha detto. Il cavolo. Aspetta che stavo leggendo un messaggio, scusate, mi ero mezzo distratto. Vai Antonè. Morta. E lui tra una lattina di birra e l'altra. No, io non ci sono poco, ne vado, sono in campagna, tra poco ne vado, me ne salgo a casa, ho mangiato anche le zanzare. Sono al telefono, un attimo. Sì, prego. E così è, che palle, devo uscire, mamma mia. Stava così bene a casa, in sandali, in perigioma, porca miseria. C'è un freddo fuori, cazzo. È freddo, Antone, io c'ho il ventilatore a soffitto, perché ho caldo, io c'ho questa scompensa ormonale, è sempre caldo, come muovo un dito mi viene caldo, non venuto dalla fa. Vabbè, fra un po' passano, porca miseria, devo uscire. E quindi vi devo lasciare, dai, mi devo truccare, mettere la parrucca, la minigonna, i tacchi a spillo, eccetera, dai. Ma comunque mi devo vestire che sono in perigioma, come dico io, con la foglia di fico. Ciao Antonio Riserva, ciao Antonello, quelli per me. Dai, ci sentiamo fra altri 6 mesi, ciao. Ciao Marco, ciao, ci vediamo. Sei rimasto nessuno? Comando, dai, sto andando. Sentiamo a dire se sono salvo su oppure alle prossime. E io, d'accordo, ciao Anto, ci sentiamo. Salutami a Marco quando rientra. Ehi, Marco è già uscito. Rientrerà, penso domani, andrà qui, non lo so. Alle prossime, ciao. Ciao, alle prossime.